Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Il merito di aver portato alla luce la notizia che ora vi racconterò è della Voce.info, un sito molto seguito tra gli economisti e tra chi di economia e finanza mastica o vuole masticare. Ebbene, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stilato una lista dei comuni italiani più virtuosi, una lista selezionatissima. Sono infatti appena 143 i municipi meritevoli. E tra questi c'è Leini, un piccolo comune piemontese balzato alle cronache nazionali qualche tempo fa per essere stato commissariato a causa di infiltrazioni mafiose, presunte infiltrazioni mafiose. Per il Ministero, ma sia chiaro che parliamo per paradossi, virtù amministrativa e mafia possono andare dunque a braccetto. In realtà la virtù premiata dal Ministero è solo quella economica, la gestione del cosiddetto patto di stabilità interno, che consiste sostanzialmente nel non sforare il tetto di spesa. La classifica ministeriale mira dunque a individuare gli enti locali meritevoli, premiandoli con un allentamento proprio di quei vincoli di spesa. La strategia, scrive Matteo Barbero su lavoce.info, non convince. Quello di Leini, infatti, non è l'unico caso. Scorrendo l'elenco si trovano altre dubbie virtù, o comunque virtuosi, o comunque comuni con dubbie virtù, come a Portoscuso, in Sardegna, il cui sindaco è stato recentemente arrestato per corruzione e concussione, riporta Barbero, oppure a Monte Sant'Angelo, anch'esso commissariato a causa delle dimissioni in massa dei rispettivi consiglieri. Insomma, non è sempre mafia, eh? Ecco dunque alimentarsi il dibattito su cosa voglia realmente significare essere virtuoso. Presentare bilanci formalmente corretti non significa sempre essere virtuosi, poiché un'amministrazione corrotta o mafiosa ha risorse ed abilità sufficienti ad aggiustare i conti, scrive ancora Barbero. Nel caso di Leni, infine, la medaglia di virtù è due volte inutile, poiché il comune, in quanto commissariato, è escluso dal patto di stabilità interna, che quindi non è un parametro di misurazione valido per il merito leinicese. Buona vita e a domani.